I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Grandi manovre nel mondo dell'automobile. Il gruppo americano General Motors e i francesi di Peugeot hanno trattative in corso per una serie di iniziative, tra le quali la più significativa appare la possibilità per i francesi di rilevare Opel, che è il marchio europeo di General Motors. Un'operazione quindi solo europea, che non riguarderebbe le attività di General Motors in altre aree, che porterebbe Peugeot insieme ad Opel a raggiungere una quota superiore al 16% del mercato europeo, diventando seconda dietro il gruppo Volkswagen, che veleggia oltre il 24% del mercato. Il gruppo francese in un comunicato ieri ha precisato che i negoziati sono sì in corso, ma che non c'è nessuna certezza sulla conclusione di un accordo. Però insomma, le borse hanno mostrato di gradire molto questa operazione e l'euforia ha contagiato un po' tutto il settore auto. Euforia che non ha risparmiato Fiat Chrysler, che ieri a Milano ha guadagnato in borsa il 4,1%. Ciò ha una spiegazione ben precisa, perché alcuni ritengono che se andrà in porto l'acquisto di Opel da parte dei francesi di Peugeot, allora si potrebbe sbloccare un'altra operazione molto importante nel settore dell'auto, cioè la fusione tra General Motors e Fiat Chrysler, a lungo cercata da Sergio Marchionne, in qualche modo ora gradita anche al presidente Trump. FCA in pratica potrebbe garantire a GM quella presenza europea della quale resterebbe priva con la cessione di Opel, che però, ricordiamolo, per il gruppo americano è una fonte costante di perdite. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Nel giorno del via libera al decreto banche, che diventa legge e porta con sé una dote di 20 miliardi per eventuali necessità di ricapitalizzazione delle banche italiane, l'OCSE presenta una radiografia puntuale del sistema del credito. Ci dice che ci sono troppi sportelli e troppe filiali di banche in Italia. Non a caso sono già partite, per la verità, le negoziazioni per gestire almeno 25.000 esuberi complessivi che si accompagneranno alla chiusura di migliaia di sportelli. In Italia in particolare il numero di addetti nelle banche per ogni 1.000 abitanti è vicino alla media europea. Però c'è il quarto livello più elevato di numero di sportelli ogni 1.000 abitanti, che è del 65% al di sopra della media europea. Ciò significa che le filiali sono piccole e infatti in media ci lavorano meno di 10 addetti, il 63% al di sotto della media europea, ed è qui lo spazio per aumentare l'efficienza per il settore. Il governo in ogni caso ha condotto riforme importanti, prima sulle popolari, poi sulle banche di credito cooperativo e ora con il decreto che garantisce eventuali emergenze di capitale. L'OCSE tuttavia sollecita il governo italiano a depotenziare le funzioni di controllo delle fondazioni bancarie. Resta naturalmente il problema delle sofferenze, il livello più alto d'Europa nei cosiddetti NPL, non performing loans. Anche su questo è intervenuto il governo con misure per facilitare lo smaltimento di questi crediti inesigibili e soprattutto occorre modificare la narrazione europea su questo punto. Nel giugno del 2016 erano 191 miliardi, vale a dire il 10,4% dei prestiti complessivi, e il tasso di recupero in Italia è del 43%, perfettamente in linea con quello degli altri partner europei. Bisognerebbe tenerne conto quando si organizza lo storytelling europeo su questo punto, che a volte francamente sembra un po' troppo interessato. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.